Si può dire che fin dalla costruzione della cinta muraria, le porte d'accesso alla città di Bologna siano state testimoni degli eventi principali che hanno segnato la storia locale, sia per quello che accadeva fuori le mura che per quello che accadeva all'interno. Prendiamo Porta Maggiore, per esempio, che per secoli è stata la principale via d'accesso alla città. Potrebbe essere chiamata Porta d'Onore, come suggeriscono gli autori del progetto Restauro delle Porte di Bologna 2007-2009, perché non solo presidiava la prosecuzione del tratto urbano della via Emilia verso la Romagna, ma all'ombra del suo arco sono passati sovrani, papi, condottieri. Fin dalla sua costruzione, nella seconda metà del 200, era dotata di un cassero, ovvero un torrione difensivo che fu ampliato da Papa Giulio II dopo il suo ingresso in città e trasformato in una vera e propria rocchetta. Dal lato opposto della via Emilia c'è Porta San Felice. Soprannominata Porta della Guerra, è da qui che partiva la marcia dell'esercito bolognese verso l'Occidente ostile, il cui primo avamposto era la Modena filo imperiale, che come sappiamo nel corso dei secoli ha dato non poco filo da torcere ai legati pontifici che si sono succeduti al governo di Bologna. Un esempio per tutti è quello della Secchia Rapita, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, episodio che si è consumato proprio fuori Porta San Felice. Ma è anche da qui che venne fatto entrare in città il corteo trionfale che portava il prigioniero re Enzo dopo la vittoriosa battaglia di Fossalta, ed è attraverso Porta San Felice che Napoleone fece il suo ingresso in città il 21 giugno 1805, in veste di imperatore. In quell'occasione la porta fu ampiamente restaurata al punto che per qualche tempo venne chiamata Porta Napoleone. Scrive il Guidicini in proposito. All'arco di trionfo fuori di San Felice, dal signor Domenico Bettini, presidente della municipalità, gli sono state presentate le chiavi della città NDA, che l'imperatore NDA ha ricusato dicendo che stavano bene nelle mani di chi erano. Per la sua posizione strategica, negli edifici adiacenti erano ospitati il corpo di guardia e i gabellieri addetti alla riscossione dei dazi. Ricordiamo che nel Medioevo, per attraversare un ponte o una porta, la maggior parte delle volte era richiesto un pagamento, un po' come avviene con le moderne autostrade. Anche Porta Santo Stefano, la porta per la Toscana, è stata protagonista di un celebre avvenimento bellico. Si tratta dell'assedio delle truppe spagnole guidate dal viceré di Napoli Raimondo da Cardona, alleato di Papa Giulio II. In quella circostanza i soldati spagnoli cercarono di fare breccia sul Baraccano, la torre di rinforzo posta tra Porta Santo Stefano e Porta Castiglione, piazzando una mina alle sue fondamenta. Si racconta che durante questa circostanza si verificò un evento prodigioso. Le mura, abbattute dall'esplosione, si rinsaldarono come per miracolo, scatenando il panico tra gli spagnoli e mettendoli in fuga. Il prodigio venne attribuito alla Madonna del Baraccano, il dipinto di Lippo di Dalmasio che era conservato nella cappella adiacente alla torre. Scrisse in proposito lo storico Francesco Guicciardini nel 1531. Fece il Navarra dare il fuoco alla mina, la quale con grandissimo impeto e rumore gittò talmente in alto la cappella che per quello spazio che rimase tra il terreno e il muro gittato in alto, fu da quelli che erano fuori veduta apertamente la città dentro e i soldati che stavano preparati a difenderla, ma subito facendo in giù ritornò il muro intero nel luogo medesimo, onde la violenza del fuoco l'avea sbarrato, e si ricongiunge insieme, come se mai non fosse stato mosso. Onde non si potendo assaltare da quella parte, i capitani giudicarono non si dovere dare solamente dall'altra. Seguì ovviamente l'ampliamento della cappella, che divenne la chiesa del Baraccano che oggi tutti conosciamo. Ma è possibile che si sia trattato di un autentico miracolo, come riferisce Guicciardini? In realtà, costui si limitò a trascrivere, 20 anni dopo, ciò di cui le leggende metropolitane andavano ripetendo e che era passato alle cronache come il miracolo del Baraccano. Ciò che avvenne in quella circostanza è facilmente spiegabile. La detonazione della polvere da sparo trovò una via di sfogo al di fuori della struttura muraria, sollevando un gran polverone e un nulla di fatto. Un polverone in cui i presenti vollero vedere, come spesso accadeva a quei tempi, l'intervento divino. La torre fu certamente danneggiata dall'esplosione, dato che le cronache riferiscono che fu ricostruita solo un anno dopo. Spostandoci di poco lungo la cinta muraria, incontriamo Porta Castiglione, o come potrebbe essere chiamata, la Porta dei Canali. Era infatti accanto a essa che il canale di Savena entrava in città. Ma che cos'era il Castiglione? Secondo alcuni, la porta e l'omonima via vennero chiamate così perché vi si poteva raggiungere Castiglione dei Pepoli, un tempo contea della potente famiglia Pepoli. Ricorderete che Romeo era stato l'uomo più ricco d'Italia. Ma è alquanto improbabile. Raggiungere il borgo sarebbe stato molto più tortuoso che percorrere la strada del fondovalle del Setta che passa per Rioveggio. Inoltre, la denominazione è precedente al periodo in cui la famiglia Pepoli si affermò in città. Con ogni probabilità, via Castiglione e relativa porta si chiamano così per la presenza di una struttura fortificata, Castellione, che doveva trovarsi sui colli appena fuori Bologna, forse dalle parti di San Vittore, ma di cui si è ormai persa ogni traccia. A proposito dei Pepoli, c'è una leggenda metropolitana che vuole che sulla facciata di Palazzo Pepoli Vecchio, ubicato al civico 8 di via Castiglione, i ferri infissi, dalla forma arcuata e la testolina di serpente, servissero niente meno che per ormeggiare le barche che provenivano dal canale di Savena. In realtà la modesta portata del canale che attraversava via Castiglione e che oggi scorre sotterraneo non era sufficiente per alcun tipo di navigazione. È logico pensare che i ferri servissero come appiglio per legare cavalli e bestie da soma in generale. Un nome alternativo per Porta San Vitale? Porta per Ravenna. Fin dalla sua costruzione fu un presidio rilevante per uno degli assi fondamentali della viabilità verso l'antica capitale imperiale. Non dimentichiamo infatti che per secoli Bologna fece parte della provincia ecclesiastica dell'arcidiocesi di Ravenna, dalla fine del V secolo fino al XVI secolo. Porta Galliera potrebbe essere chiamata Porta della Rocca Ostile, per la vicinanza con la più volte costruita e più volte demolita Rocca di Galliera. Ricordate? Il primo a costruirla fu il famigerato Bertrando del Poggetto, l'ultimo Papa Giulio II. Mentre per Porta Lame un soprannome appropriato sarebbe Porta delle Acque, per la presenza di acquitrini e del porto con annessa salara. Nel 1334 venne dotata di ben due ponti levatoi, uno per il passaggio dei carri e uno per i pedoni. Difficilmente presidiabile, fu spesso chiusa. Anche Porta San Donato subì la stessa sorte, al punto da essere murata nel 1428 per poi essere ristrutturata e riaperta nei decenni successivi. Negli anni 50 rischiò di essere abbattuta perché, secondo gli amministratori, intralciava il traffico. Un nome alternativo per Porta Saragozza potrebbe essere Porta Sacra o Porta dei Pellegrini, perché dal 1674 diventò accesso al portico di San Luca, mentre in precedenza rimaneva spesso inutilizzata. Le è stato conferito l'aspetto odierno da una ristrutturazione avvenuta nell'Ottocento. Quella che è rimasta uno dei più fedeli esempi di architettura duecentesca è Porta Mascarella, anche se il torrazzo fortificato che la sovrastava è stato demolito nel 1511 perché troppo esposto ai colpi di artiglieria. Non è più presente nemmeno la casupola dei gabellieri addetti alla riscossione del dazio che si trovava a fianco della porta, demolita nell'ambito del piano regolatore che ha cancellato dalla mappa della città anche Porta Sant'Isaia e Porta San Mamolo. La Bologna di Giovanni Bentivoglio.